Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio per il soundcheck della domenica. Buona domenica, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Francesco, non possiamo perdere neanche un secondo oggi perché abbiamo molte novità che riguardano il catalogo del jazz. Sì, ultimamente abbiamo presentato materiale di musica elettronica, contemporary R&B, abbiamo dedicato una puntata al jazz più classico, quello del periodo Blue Note, perché abbiamo dedicato una puntata al grande Rudy Van Gelder, ingegnere del suono che ha creato il suono del jazz di quel periodo. Oggi invece parliamo di nuove pubblicazioni. Direi di partire subito con questo talento incredibile, quello di un tredicenne oggi, ma la prima pubblicazione discografica l'ha fatta più di un anno fa. A 12 anni si è fatto notare in tutto il mondo, suonando nei festival più importanti del mondo e tra l'altro con un disco che è stato best seller nella discografia jazz in vari paesi. E vi sto parlando di questo ragazzino filippino, un vero prodigio della natura, chiamato Joy Alexander. Sì, io in realtà ho già da farti una domanda, perché quando in questi casi, appunto, quando un tredicenne si ritrova ad essere quasi il leader di una band che ha all'interno Larry Grenadier, Chris Potter, cioè comunque musicisti che sono già affermatissimi, ovviamente anche dal punto di vista dell'età sono molto più avanti rispetto a lui, cioè è realmente un band leader oppure è lui che si aggrega a quelli che hanno più esperienza, i musicisti che hanno più esperienza? Beh, senz'altro dietro a un ragazzo, a un ragazzetto di 13 anni c'è una bella produzione, anche perché Joy Alexander è sostenuto artisticamente da Quincy Jones, avrà sicuramente un bravissimo manager, però non so quanto abbia il polso del leader. Fatto sta che un pianista prodigioso e uno come Chris Potter non si presterebbe mai a suonare con uno che non è al suo livello. E infatti la cosa impressionante è proprio questa, la maturità che ha questo giovane pianista, che qui ascoltiamo da una recente pubblicazione. L'album è stato pubblicato qualche mese fa? Sì, si chiama Countdown. Countdown per Joy Alexander, il brano è City Lights. sì, il talento incredibile di questo ragazzino, 13 anni, quelli di Joy Alexander Filippino, ma che già suona in festival jazz importanti, arrivato alla sua seconda pubblicazione discografica intitolata Countdown. E da Joy Alexander ancora in sottofondo al sound di Esbjørn Svensson, che viene ricordato in questo album per la ACT, che è stata anche la casa discografica di questo meraviglioso pianista nord-europeo, album intitolato Est Symphony, sì, Esbjørn Svensson Trio Symphony, una sinfonia realizzata sulle composizioni scritte da questo formidabile pianista. Il brano è bellissimo e si intitola Seven Days of Falling. Soundcheck, il suono della musica. Sì, lasciami ringraziare, Francesco, tutti gli amici che hanno spedito complimenti per il lavoro Fun Slow Ride realizzato a New York con alcuni fra i più importanti vocalist americani, ma fra questi c'è anche la voce splendida di una italiana italo-newyorkese, Greta Panettieri, il sax soprano di Max Ionata, una composizione di un altro italiano, bravissimo tastierista, producer discografico, chiamato Pasquale Strizzi. E da Fun Slow Ride qui al Soundcheck di Radio 24 per presentarvi nuova discografia del reparto jazz, arriviamo a un altro trio molto amato a New York, quello dei Bed Plus. Sì, loro sono Ethan Iverson, che suona il pianoforte, e il contrabbassista Reed Anderson e il batterista Dave King. Hanno suonato insieme per la prima volta nel 1989, quindi comunque suonano e si conoscono da tantissimo tempo, però hanno fondato i Bed Plus solo nel 2000. Devo dire che io li ho visti dal vivo e sono veramente formidabili, c'hanno un interplay, una forza impressionante, veramente, cioè forse sono secondi solo al trio di Brad Meldau per pienezza del suono e per come riescono a interagire tra di loro, per come sono compatti, cioè suonano veramente come se fossero un unico strumento. Da poco hanno pubblicato il loro nuovo disco, che è uscito il 26 di agosto e si intitola It's Hard. It's Hard. In questo album i Bed Plus recuperano materiale musicale che proviene da repertori diversi, e infatti qui li ascoltiamo in questo arrangiamento per trio di un classico successo di Cyndi Lauper intitolato Time After Time. Il primo che realizzò una versione jazz di Time After Time fu proprio Miles Davis con un arrangiamento di Marcus Miller, ma qui i Bed Plus ci mettono del loro. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Si intitola Escape Velocity, il nuovo album di Theo Crocker. Il primo è stato prodotto per lui da Didi Bridgewater, adesso in questo album c'è anche la partecipazione della sua producer che porta in giro con sé tutta la band di Theo Crocker ormai da un paio di anni. Il brano era This Could Be for Traveling Soul. Theo Crocker al soundcheck di Radio 24 in questa puntata della domenica dedicata alle nuove pubblicazioni del reparto jazz. E dal trombettista della nuova generazione Theo Crocker invece a un veterano come Tom Harrell, che abbiamo scoperto ormai tantissimi anni fa quando faceva parte del quartetto e del quintetto di Phil Hoots. Tom Harrell è una leggenda vivente per i musicisti contemporanei e torna con un disco nuovo intitolato Something Gold, Something Blue. Il brano che noi vi presentiamo si intitola Sound Image. Intanto Francesco, io volevo sapere da te se c'è la possibilità di ascoltare del buon jazz nel nostro paese. I club sono attivi, insomma i club storici stanno funzionando, ma ce n'è uno in particolare che sta proponendo un bel cartellone. Sì, il Ferrara Jazz Club, che da un paio d'anni comunque propone sempre musica e un cartellone di alto livello. Abbiamo già in realtà passato i Bed Plus, che hanno suonato i primi di ottobre. Il cartellone va avanti fino ad aprile, è iniziato il 7 di ottobre e finirà il 30 di aprile. Tenete d'occhio la programmazione del Ferrara Jazz Club. Vi salutiamo con il suono meraviglioso della tromba di Tom Harrell, Sound Image, e vi diamo appuntamento a mercoledì su Rai 5 a partire dalle 21:15 per una nuova puntata, anzi un nuovo episodio di Variazioni su tema, e naturalmente a sabato prossimo sempre alle 19:15 qui su questi schermi su Radio 24, la nostra radio preferita. Buona serata a tutti.